Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di viaggi esotici, in particolare del viaggio in Oriente, che ha costituito un mito nell'immaginario collettivo dell'Occidente, un mito che trova espressione nelle mete dei viaggi, anche dei viaggi che facciamo noi oggi, non meno che nella letteratura, nella musica, nella pittura. E questo mito viene esplorato da Attilio Brilli, che è un professore dell'Università di Siena, esperto di letteratura di viaggio, con il libro Il viaggio in Oriente, pubblicato dal Mulino, 366 pagine, 28 euro. Il viaggio in Oriente, dice Brilli, si presenta agli occidentali come la scoperta di un universo sconosciuto e denso di mistero che da un lato si presenta sensuale, eccitante, foriero di lusinghe e di gratificazioni, ma dall'altro infido, ostile, efferato, crudele. Ma proprio in questa contraddittorietà c'era il fascino qui esplorato fin dai tempi delle crociate, nelle diverse tipologie dei viaggi, nei diversi occhi dei viaggiatori a seconda che fossero inglesi, francesi, italiani o che altro. E di questi viaggiatori troviamo qui le testimonianze, alcuni sono molto noti, per esempio il nostro Edmondo De Amicis, che scrive Brilli, è colui che segna in maniera irreversibile il passaggio dal viaggiatore al turista, più esattamente di colui che invita i propri lettori a incamminarsi sulla più agevole strada del turismo organizzato, sulla quale probabilmente molti di noi in questi anni, in questi e forse anche in questo periodo, intraprendono un'esplorazione dell'Oriente. Poi nel libro si parla delle reazioni degli artisti, delle influenze letterarie, delle varie forme di viaggio, ma insomma sentiamo che cosa resta di questo mito, ce lo facciamo spiegare dallo stesso autore. Buongiorno ad Attilio Brilli. Buongiorno. Professor Brilli, nel suo libro lei esplora le ragioni di questa infatuazione costante dell'Occidente per l'Oriente. A un certo punto nella prefazione spiega che nel viaggio in Oriente c'è anche l'anelito dell'uomo moderno verso le proprie origini. È stata questa la ragione principale di questa passione per il viaggio in Oriente? Ma diciamo è una delle ragioni. Accanto a questa ce ne sono altre, diciamo. Comunque questa è fondamentale perché c'è lì il nucleo delle grandi religioni monoteiste e per certi aspetti anche la culla di tutte le lingue occidentali. E questo forse un richiamo anche irrazionale ma profondo, ecco, che agisce nell'uomo contemporaneo, nell'uomo moderno e contemporaneo più esattamente. Diciamo moderno perché la sua ricerca parte dalla metà dell'Ottocento. Sì, metà Settecento fino alla fine dell'Ottocento, grosso modo, ecco. Sì. A quell'epoca che cosa colpiva di più i viaggiatori occidentali dell'Oriente? Qual era la caratteristica che più li impressionava, secondo diciamo lei? Sono due, essenzialmente. Per un verso è questo mondo velato intensamente erotico. Sostanzialmente l'Oriente è erotismo per l'uomo occidentale. Lo si mascheri come si vuole, di fatto, come dire, l'apice di questo trasporto per l'Oriente in realtà è rappresentato da Flaubert, insomma, il suo viaggio in Oriente. L'altro tema però direi appassionante per l'uomo occidentale è stato il dispotismo orientale, questo atteggiamento, questa gestione proterva direi assoluta del potere. È quello che per certi aspetti è un legame che ancora, come dire, in qualche modo sussiste tra Occidente e Oriente. Studiando il dispotismo orientale dell'Ottocento, insomma, si leggono tante cose e tanti riflessi per il mondo contemporaneo addirittura. E oggi questa dicotomia col dispotismo e la democrazia è ancora viva? Ma direi di sì. Nel senso che gli eventi ce lo dimostrano. Diciamo c'è un grosso dibattito su questo, gli studi molto belli di Edward Said, però poi l'Oriente dei grandi viaggiatori e scrittori ottocenteschi era un Oriente filtrato attraverso il dispotismo ottomano. E questo non lo possiamo dimenticare, altrimenti falsiamo tutto. E questo gusto per l'orientalismo poi si trasmette anche nelle arti visive, nella letteratura, e lei descrive queste influenze? Direi che questa poi si salda anche con la politica coloniale occidentale. Per esempio, mi ha colpito questo fatto, i grandi pittori orientalisti prevalentemente francesi, no? In minor misura gli inglesi hanno più una sensibilità topografica, di cui potremmo parlare dopo se crede, ma i francesi hanno questa grande passione per l'Oriente, che è l'Oriente mediterraneo, compreso il Maghreb, poi avevano il loro, come dire, fulcro in Algeria naturalmente. Il governo francese impone a tutti i musei regionali di comprare i peintres orientalistes, i pittori orientalisti. Era una politica coloniale effettiva, no? Un accreditamento della politica coloniale del tempo. E invece nella letteratura? Ma nella letteratura, beh, c'è un discorso più di carattere individuale, si avverte meno. La letteratura orientalista, se possiamo usare questa definizione, è soprattutto il desiderio di cercare nell'Oriente una ricarica della propria poetica, una stimolazione anche sensoriale e sessuale portata all'estremo, dove l'esperienza sessuale coincide, come Flaubert, con la morte o con il Nerval ugualmente. È però un modo per in qualche modo ricaricarsi, ma per così dire la testa, il cuore rimangono in Europa. In questo senso effettivamente, diciamo, c'è un colonialismo letterario, se vogliamo usare questa formula. La sua analisi non arriva fino all'oggi, però il gusto per l'Oriente non è cessato, probabilmente si è anche spostato geograficamente, è andato sempre più verso l'Oriente. Sì, certo, direi. Beh, io ho dovuto mettere due paletti ben precisi, il primo di carattere geografico, altrimenti un Oriente infinito, per così dire. Mi sono interessato dell'Oriente Mediterraneo, o il cosiddetto vicino Oriente, Arabia compresa, no? Sì. Perché c'è l'altro grande mito del beduino, del buon selvaggio, è stato uno dei miti, grandi miti occidentali, anche le grandi demistificazioni, insomma, dell'Oriente. E allora oggi? E oggi quel mondo è scomparso totalmente. Il mondo più antico, direi il mondo nomade, dove il beduino si confondeva nell'ottica occidentale con il patriarca biblico, per così dire, oggi quel mondo è scomparso, è il più moderno che esiste, è il più artefatto che possa esistere, è stata la grande scoperta del petrolio che ha sconvolto tutto. E infatti, curiosamente, molti occidentali vanno a cercare in quei paesi orientali la Mecca del consumismo e dello shopping. Infatti, pensi che capovolgimento c'è stato in un giro relativamente breve di anni. Sa che io in molti momenti mi sono quasi imposto di finire, di chiudere il libro con il 1869, cioè con il canale di Suez, perché lì in effetti l'Oriente, diciamo così, immaginario, ottocentesco, in realtà è finito a quel punto. Il canale di Suez diventa il grande business in definitiva europeo, no? Quando gli inglesi comprano con un colpo di mano le azioni del canale di Suez, detronizzando la Francia, a quel punto direi cominciano le orde dei Cook Steward, dei turisti di Cook, ecco, il turismo organizzato, l'Oriente sta finendo in quel momento. Con che atteggiamento consiglierebbe di accostarsi all'Oriente i turisti di oggi? È un problema enorme perché nell'Oriente di oggi non ci si va da viaggiatori, ci si va da turisti, e direi nel senso forse deteriore del termine, con scorte. In Egitto uno si muove sotto scorta in definitiva. Io spero di andare al Cairo e di ritornare, cioè al Cairo con degli amici egittologi che hanno la casa lì, ecco. Ma se dovessi andare come turista non potrei andare assolutamente se non attraverso un sistema di organizzazione. Certo, possibilmente poter andare il più possibile liberi, allora si può forse assaporare un qualche cosa dell'Oriente. Ho qualche dubbio che sia possibile però, all'atto pratico, senza degli agganci precisi con i singoli paesi. In ogni caso meglio leggere il suo libro, Il viaggio in Oriente. Grazie ad Attilio Brilli. Grazie a lei. Grazie professore. Vi propongo a questo punto una meta orientale che i visitatori classici non potevano conoscere perché la città non esisteva. Ha infatti appena compiuto 100 anni, Tel Aviv. E ce la racconta la storia di Tel Aviv Elena Löwenthal, scrittrice e traduttrice, grande esperta di cultura ebraica, nel libro intitolato appunto Tel Aviv, la città che non vuole invecchiare, pubblicato da Feltrinelli, 156 pagine, 12 euro. Perché non vuole invecchiare? Tel Aviv ha una data precisa di nascita, l'11 aprile del 1909, quando furono sorteggiati tra i fondatori lotti di terreno destinati alla costruzione della città. Una città che era nata per il disegno di Eliezer ben Yehuda di avere un luogo dove si parlasse esclusivamente ebraico, e il nome le venne attribuito da un riferimento biblico. Perché non vuole invecchiare? Ce lo spiega la stessa autrice in questo brano che vi propongo. Più la guardo, con gli occhi e con i ricordi, più mi convinco che è proprio così. Tel Aviv non vuole invecchiare. Forse ha paura dell'età, forse invece è sicura di vincere la propria lotta contro il tempo. Imparentare città diverse, magari lontane, è un'operazione sempre un po' azzardata, soprattutto per me che non ne ho viste tante. Ma ogni volta che torno nell'una o nell'altra, non posso fare a meno di accorgermi di quanto Berlino e Tel Aviv si assomiglino. Se non altro nel modo di pensare il tempo, di correre incontro al futuro cercando di lasciarsi il passato alle spalle. Pensare che l'orientamento del tempo ebraico è opposto. Hai di fronte il passato e cammini a ritroso, con il futuro dietro, alla cieca. Ciò che è già avvenuto ti sta davanti agli occhi, tanto che prima e di fronte si dicono con la stessa parola. Il futuro, invece, sta invisibile alle spalle. Sia Berlino sia Tel Aviv non vogliono invecchiare, eppure sono sovraccariche di memorie. Costruite sulla memoria. Ogni volta che torno in una o nell'altra città, guardo e mi dico che in nessun altro posto al mondo, perlomeno del mio mondo, il cielo è altrettanto costellato di gru. In questo, Berlino e Tel Aviv sono gemelle. Cantieri ovunque, sempre. In moto frenetico, quasi compulsivo. Continuiamo con questo parallelo con Berlino, con un libro intitolato appunto Berlino, di Eraldo Affinati, pubblicato da Rizzoli, 278 pagine, 17 euro. Un altro libro intitolato Una città, che non è una guida ma una divagazione soprattutto letteraria. Quella di Affinati è una Berlino dal cuore elettrico, e l'autore scandisce qui la sua settimana di permanenza a Berlino col ricorso a 7 pronomi personali. In ogni capitolo dunque il soggetto cambia per presentare una serie di spunti, osservazioni, riflessioni, esperienze dello scrittore. Per esempio, sentite queste righe che sotto il pronome loro sono dedicate alla stanza del silenzio. Sotto la porta di Brandeburgo il flusso dei turisti è incessante. Vengono da tutto il mondo con le macchine fotografiche digitali in pugno e sembrano indistinguibili gli uni dagli altri. Hanno percorso l'Unter den Linden, fermandosi qua e là a curiosare nei negozi. Si sono appena fatti immortalare accanto ai mimi travestiti da soldati. Scorrono a destra verso il Reichstag, a sinistra in direzione del monumento che ricorda lo sterminio degli ebrei. Non tanti, ma qualcuno, prima di superare le antiche porte della pace, viene attirato da una scritta. Stillraum, la stanza del silenzio. L'accesso è proprio sotto l'arco. Una vecchietta seduta al banco sorride ai curiosi. Ci sono molte coppie giovani, diversi ragazzi, alcuni militari, perfino un vagabondo. Possono entrare tutti a una condizione, che stiano zitti e, per quanto possibile, immobili. La stanza è piccola. Una luce batte sull'arazzo alla parete, opera di Rita Hager di Budapest, davanti a due file di sedie. La gente si mette seduta e resta in silenzio. Chi vuole pregare, prega, anche se non è una chiesa, non è una moschea e neppure una sinagoga. In considerazione del luogo, probabilmente le meditazioni riguardano la natura ferina dell'essere umano. All'uscita una didascalia informa al pubblico che questa stanza venne inaugurata il 27 ottobre 1994. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo adesso due generi letterari particolarmente adatti alle vacanze. Il primo è quello dei racconti, poche pagine da leggere facilmente, magari semplicemente in mezz'oretta, oppure che ci possono conquistare senza lasciarci poi fiato. E senz'altro quello che vi succederà con uno dei più grandi scrittori di racconti, Roald Dahl, molto noto in particolare per il romanzo e poi il film La fabbrica di cioccolata. E dello scrittore gallese escono tutti i racconti, pubblicato da Longanesi, il libro 828 pagine, 22 euro, tradotto da Alba Bariffi, Massimo Bocchiola, Fabrizio Cocco, Luisa Corbetta, Giovanni Garbellini, Paolo Berti del Freo, Attilio Veraldi. Sono questi racconti brevi, alcuni fulminanti, capaci di rendere in poche righe emozione, suspense, di creare atmosfere sognanti o inquietanti e di offrire dei finali che sono davvero inaspettati. Passiamo invece ai racconti di oggi con la prima raccolta di una scrittrice milanese, Gaia Manzini, si intitola Nudo di famiglia, Fandango, 190 pagine, 14 euro. Qui troviamo tutt'altra atmosfera rispetto a quella in certe pagine perfino rarefatta di Dahl. E dall'ambiente raffinato e pieno di humor dello scrittore gallese passiamo all'Italia di oggi, è un ambiente un po' più crudo, in certi casi anche più angoscioso. Ma la prova di esordio è buona e troviamo qui alcune figure che si stagliano con nettezza, per esempio quella di Ada, che a 97 anni ha una storia segreta proprio con il mare. Sentite queste righe. Ada, 97 anni, a notte fonda quando i suoi nipoti dormono e le sue figlie anche, quando più nessuno la pensa, quando è ferma immobile, inchiodata al letto di Mogano, lei va a nuotare. Ecco a cosa pensa il corpo di una vecchia, si dice. Le bracciate sono forti, sono le sue, che affondano per cercare la sberla cristallina delle correnti fredde e le gambe nude s'abbandonano senza vergogna, sventate e sincere. È quel senso d'esserci tutta che hanno i giovani, mentre l'acqua le bacia il collo, la faccia torna a cercare la luce ogni tre bracciate e il sapore del sale sulle labbra è arso come la terra su cui è vissuta. Un genere completamente opposto a quello della novella è il romanzo lungo, anzi lunghissimo, il bel librone che probabilmente soltanto in vacanza abbiamo il tempo e la voglia di poter affrontare e di poter poi goderci. E allora niente di meglio del romanzone di uno degli autori americani più famosi ma anche più riservati e misteriosi, Thomas Pynchon. Pensate che di Pynchon non si trova più nemmeno la documentazione relativa alla sua carriera universitaria a Cornell e nemmeno quella sulla sua carriera militare, il deposito in cui c'erano queste carte misteriosamente andato bruciato. Qualcuno addirittura esclude l'esistenza dello scrittore, lo considera il nome di una squadra. In realtà Pynchon esiste e ha pubblicato pochi volumi, questo è l'ultimo, Contro il giorno si intitola, sono 1130 pagine, 32 euro, tradotte da Massimo Bocchioli per Rizzoli. Il libro ovviamente non può essere riassunto, sappiate solo che era molto atteso dai tanti ammiratori dello scrittore, che è stato giudicato il papa del postmodernismo americano. E qui abbiamo una storia molto intricata che parte dall'uccisione di un minatore anarchico, e da questo episodio si dipana poi un girotondo di vicende e di situazioni ambientate in tutto il mondo, anche in Italia, ma soprattutto troviamo una girandola di personaggi e di generi. Come è stato notato, questo che alcuni ritengono il miglior romanzo di Pynchon è quasi un pastiche letterario, e alcuni recensori americani hanno notato come evidentemente Pynchon si sia divertito a scrivere questo libro, arricchendolo, ripeto, di tanti generi, dal giallo al racconto tradizionale, per rendere un'opera che sicuramente è un unicum. Un altro grande scrittore assai popolare è Salman Rushdie, il quale ci porta in Italia con un romanzo di dimensioni più normali, sono soltanto 376 pagine, e il libro si intitola L'incantatrice di Firenze, pubblicato da Mondadori, 20 euro, ed è tradotto da Vincenzo Mantovani. Un libro che alcuni recensori americani hanno definito un lungo peana al potere dei sogni, che ci porta nella città medicea, nel periodo del pieno splendore rinascimentale, E troviamo infatti fra i protagonisti anche Niccolò Machiavelli, che ci viene qui presentato nella fase più malinconica della sua vita, quando Machiavelli è stato estromesso dagli incarichi civili e politici e per ingannare l'ozio e per cercare di ingraziarsi il potere scrive un libretto che cambierà la storia del pensiero politico ma che non susciterà alcuna emozione alla sua pubblicazione, come testimoniano queste righe di Rushdie. Fu in questo periodo che il Machia presentò il suo libro alla corte di Lorenzo. Non udì mai una parola di ringraziamento, apprezzamento, critica o anche solo di assicurazione che il libro era stato ricevuto e nessuna copia fu trovata tra gli effetti di Lorenzo dopo la sua morte. Per breve tempo girò la voce che Lorenzo era scoppiato in una risata sprezzante quando il libro gli era stato consegnato e che lo aveva gettato in un canto. «Quel fallito crede di poter insegnare al principe come il principe dovrebbe governare», disse con pesante sarcasmo. «Ovviamente questo è un libro che devo subito imparare a memoria». Poi, appena si spense la risata dei cortigiani, soggiunse, provocando una seconda ondata di rispettosi sghignazzi. «Di una cosa possiamo essere certi, se il nome di questo Niccolò Mandragola sarà mai ricordato, sarà sicuramente come attor comico, non come pensatore». La storia giunse all'orecchio di Iago Vespucci, che però era troppo buono per ripeterla all'amico. Di conseguenza, per parecchi mesi Niccolò sperò in una risposta. Quando apparve chiaro che nessuna risposta sarebbe arrivata, il declino del Machia diventò più rapido. Quanto al libro, lo mise via e non lo offrì a nessuno da pubblicare durante la sua vita. Firenze è solo una tappa per il protagonista, che in realtà parte dalla capitale mongola in un'avventura esistenziale sentimentale che riguarda poi anche la città toscana, di cui Rushdie ci dà sicuramente una bella ricostruzione. Rushdie stesso ci ha spiegato così il significato del suo libro in una dichiarazione a un giornale francese: ciò che mi interessa qui è soprattutto l'epoca, cioè la nascita del mondo moderno e l'inizio della scoperta di una cultura da parte di un'altra. Noi conosciamo, aggiunge Rushdie, il viaggio di Marco Polo, il suo incontro con Kubilai Khan, ma non ho trovato in tutte le mie ricerche nessuna traccia di un viaggio in senso inverso, quello di un indiano verso l'Europa. E ho voluto appunto che il mio narratore fiorentino immagini questo viaggio, e per di più che questo viaggio sia intrapreso da una donna, così Rushdie, che accenna appunto alla protagonista femminile che è la principessa Cara Coetz. Ne risulta un libro singolare, sorprendente, che alcuni osservatori, alcuni recensori stranieri hanno stroncato e che alcuni invece hanno considerato il migliore libro di Rushdie, e dominato più dalla magia che dal realismo, che per noi italiani, ripeto, ha in più il fascino di questa bella ricostruzione della Firenze medicea. Restiamo a Firenze ricordando due mostre. La prima, che chiude il 30 agosto, Galileo, immagine dell'universo dall'antichità al telescopio. Questa mostra è stata organizzata in occasione dell'anno galileiano, che ricorda il 400° anniversario delle prime scoperte celesti di Galileo. Tra l'altro ricorre proprio il 25 agosto l'anniversario, il 400° anniversario della sua presentazione del telescopio ai magistrati di Venezia. Questa mostra di Firenze presenta una storia della rappresentazione del cosmo fino alla rivoluzione scientifica ed è arricchita da opere d'arte, strumenti scientifici e modelli cosmologici funzionanti. Quest'anno è anche il 400° anniversario della scomparsa di Ferdinando I dei Medici, al quale è dedicato un'altra mostra fiorentina che è in corso fino a novembre alle Cappelle Medicee, dove proprio Ferdinando dei Medici aveva commissionato un prezioso altare. E in queste occasioni e mostre fiorentine vi segnalo la ristampa di un classico di un famoso scrittore toscano, Giuseppe Giusti, un protagonista del nostro Risorgimento, di cui viene ripubblicata La cronaca dei fatti di Toscana. È pubblicato da Polistampa il libro e riproduce l'edizione Le Monnier del 1948. Sono 264 pagine, 16 euro. In un periodo in cui ci si parla sempre più spesso di unità nazionale, di Risorgimento, anche in vista del 150 cinquantenario dell'Unità d'Italia nel 2011, questo libro è importante non solo per gli appassionati di storia fiorentina, perché racconta gli anni intorno al 1848, l'anno famoso dei portenti, quando la Toscana all'inizio si dà lo statuto e affianca il Piemonte nella prima guerra di indipendenza contro l'Austria, poi con ulteriori convulse vicende vede l'effimera vittoria dei liberali, la fuga del Granduca e nel 49 il ritorno e la restaurazione. E Giusti vive questi mesi dalla parte dei moderati contro il Granduca e racconta in questo memoriale con grande brio e partecipazione quelle settimane che furono decisive per la storia non soltanto di Firenze ma di tutto il nostro paese. E a questo punto il confettino. Vi propongo oggi Milli, un fantasma mostruosamente tenero di Klaus Baumgart, pubblicato da Gallucci, tradotto da Caterina Lenzi, 13 euro. Il protagonista qui è un sorprendente fantasmino in cerca di tetto che lo troverà assieme a dei mostri stanchi di impaurire per lavoro a Luna Park. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi auguro naturalmente una buona conclusione di questo weekend di pieno agosto e vi do appuntamento la settimana prossima.